gli speciali di Radio Popolare. Scrivere nel 2010 un libro per descrivere cosa sarebbe successo oggi nel 2012, può essere un'operazione alla Nostradamus, oppure più seriamente un'inchiesta basata su dati conosciuti, neanche dati segreti, dati alla portata di tutti. Il libro di Aldo Giannulli, 2012, La grande crisi, appartiene a questa seconda categoria, quella dell'inchiesta sui dati conosciuti, ed è per questo motivo che in questi primi giorni del 2012 abbiamo chiesto all'autore Aldo Giannulli di accompagnarci da qui a giovedì per scoprire cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. Ovviamente non sarà un oroscopo, lo diciamo subito, e diciamo subito che oggi ci occupiamo di economia. Buongiorno Aldo Giannulli. Buongiorno. Allora, io partirei subito proprio con i dati, ma prima però bisogna evidentemente chiedere se in questo libro che noi usiamo a pretesto, 2012, tu hai, qualcosa ti è sfuggito alle analisi, oppure era così imprevedibile che hai dovuto dire: ma il prossimo libro che scrivo faccio un'errata corrige, perché qui ho sbagliato qualcosa. Beh, come molto spesso succede, su un certo numero di previsioni alcune si sbagliano oppure si prendono in modo impreciso. Ad esempio, io ero poco convinto che ce la facesse Draghi, e invece Draghi ce l'ha fatta, anche se non so come l'abbiano presa i tedeschi. Per il resto temo di aver sbagliato per un eccesso di ottimismo, nel senso che intanto i guai sono cominciati già 6-7 mesi prima, e in secondo luogo le dimensioni del disastro sono peggiori, perché adesso viene fuori che i numeri non sono quelli sui quali io ho lavorato, che erano quelli pubblici, ma sono ancora più disastrosi. Allora, i numeri, perché e qui non c'entrano niente la congiunzione astrale dei pianeti, no, ed altro, c'entra qualcosa di molto umano. Nel prossimo triennio, però, a partire dal 2012, vanno a scadenza centinaia di migliaia di titoli di Stato e di titoli spazzatura. Allora, innanzitutto, ci puoi dare la dimensione? Allora, il debito mondiale complessivamente si aggira intorno ai 100.000 miliardi di dollari, tecnicamente si dice 100 tetra miliardi di dollari. La situazione è questa: di questo debito quest'anno ne scadono titoli per 11.000 miliardi, cioè vale a dire quasi il 9%. Se ogni anno ci fosse una scadenza del genere, questo significa che nel giro di 9 anni noi dovremmo rinnovare l'intero debito, il che naturalmente non è possibile, perché pensate che dentro ci sono scadenze ventennali, trentennali, eccetera. Quindi c'è una concentrazione molto forte quest'anno. Il problema è questo: in teoria ogni investitore potrebbe mettersi in saccoccia gli interessi, posto che tutti siano in grado di darli, e rinnovare il debito e quindi guadagnare tempo. Il problema qual è? Che già si sa, è abbastanza sicuro, che una fetta, le cui dimensioni dovremo scoprire alla fine, di questo debito non sarà rinnovata. Perché? Perché gli investitori, per esempio, possono preferire l'oro, o perché gli investitori possono preferire investimenti in economia reale, immobili, terreni, o perché ad esempio possono spostare il loro investimento. Ad esempio, anziché rinnovare il debito di un'azienda, io prendo quel denaro e lo converto in franchi svizzeri. Quindi una fetta fetta non piccola di questo debito rimarrà non pagata, che non rifinanziata. Il che significa che con ogni probabilità il debitore difficilmente sarà in debito in condizioni di onorare il suo debito, e quindi dobbiamo aspettarci un'ondata di default, cioè di fallimenti. Ma questo riguarda appunto i titoli di Stato o i fondi sovrani? No, riguarda un po' tutto. E ma uno potrebbe non essere per nulla interessato a comprare questi famosi junk fund, cioè i titoli spazzatura. Sì, dunque i titoli cosiddetti titoli spazzatura sono quei titoli che, avendo un alto indice di rischio, offrono un alto interesse. L'investitore spericolato preferisce un alto interesse con un alto indice di rischio a un titolo che invece è più sicuro, però nello stesso tempo meno remunerativo. Ad esempio, io posso ritenere che i Bund, quelli tedeschi, i titoli tedeschi, che offrono un interesse molto limitato. Ma sono solidi. Ma però. Sono solidi, io investo in quello. Uh-huh. Viceversa, altri possono ritenere una remunerazione dell'1-1,5% non conveniente, perché, ad esempio, al netto del tasso di inflazione prevedibile potrebbe diventare un rendimento negativo. Quindi dipende dall'atteggiamento che ha l'investitore. Ma i titoli spazzatura, faccio una domanda da profano, possono, beh, innanzitutto chi li ha emessi? Secondariamente possono essere cancellati, oppure, un po' come si dice, bisogna semplicemente mettere la polvere sotto il tappeto? Dunque, cos'è questa storia? I titoli spazzatura sono emessi prevalentemente da aziende, da imprese che finanziano particolari progetti, si ritiene molto costosi, molto, però molto redditizi in un certo periodo. Cosa accade? Che l'investitore ingordo, un po' troppo goloso, investe perché riesce a prendere anche l'11, il 12, qualche volta il 15%. Naturalmente più alta è la soglia di interesse, più è probabile che l'investitore, che il debitore non ce la faccia poi a reggere. In tempi di mercato allegro questo non è un problema, ma in tempi di mercato avaro, perché c'è poco denaro o perché c'è paura a investire, questo diventa un problema. Che cosa succede se non vengono rifinanziati? Probabilmente una serie di fallimenti. Però questi fallimenti non si limitano all'azienda, perché poi di mezzo, ad esempio, c'è, se l'investitore è un privato, poco male, vabbè, l'investitore ci ha rimesso il suo capitale, ma se l'investitore è una banca, una società assicurativa o comunque, diciamo, un investitore istituzionale, e inizia a imbarcare una serie di fallimenti del genere, può a sua volta trovarsi nella condizione di non onorare i suoi debiti, e quindi avremo un'ondata di fallimenti a catena. È una bella contraddizione. Questa è una crisi dovuta, lo dico in maniera molto semplice, alle liquidità, troppi soldi. Contemporaneamente le interventi che ci sono da parte di tutte le più grandi superpotenze e anche le grandi potenze di medie dimensioni sono aggiungere liquidità se il più possibile, e questo però non risolve il problema. Spieghiamo come funziona ai nostri ascoltatori con un paragone. L'idropsia, un paragone di tipo medico. Cos'è l'idropsia? È il nostro rapporto di fluidi nel corpo è retto da due pressioni: da un lato la pressione dell'acqua contenuta nei vasi, dall'altro dalla pressione, semplificando, dei vasi. Quando però le due pressioni si squilibrano, e per esempio la pressione dei vasi, classico il caso delle vene varicose per intenderci, no? O cose del genere, cedono, iniziano a crearsi accumuli, ristagni di liquidi nell'organismo. A lungo andare questo affatica fortemente il cuore e può provocare una serie di malattie, per esempio l'ascite, la pleurite, cioè sono fenomeni legati a questo genere di edemi. Durante il decorso della malattia, uno dei sintomi può essere quello della sete, proprio perché in realtà questo liquido ristagna nell'organismo, però nello stesso tempo non irriga, non va dove deve andare. Per cui l'ammalato è portato a bere, ma bevendo calma il sintomo, ma aggrava perché la situazione clinica, perché ulteriore acqua ulteriore liquido finirà nel ristagno generale. E questa è la situazione dell'economia esattamente mondiale. Quello che sta succedendo, cioè noi abbiamo un eccesso di accumulazione, perché quando il prodotto mondiale lordo è 74.000 miliardi, però i mercati finanziari gestiscono 611.000 miliardi, cioè 8 volte il prodotto lordo, è evidente che c'è un eccesso di liquido nell'organismo. Che succede? Il denaro pretende di essere remunerato, non lo puoi tenere fermo, per cui è permanentemente alla ricerca di occasioni di impiego e di remunerazione. Più ne metti, più aumenta la richiesta di alimentazione, quindi la formazione di continue bolle, l'equivalente dei nostri edemi. Prima sarà la bolla immobiliare, poi quella dell'oro, poi quella high tech, poi quella del web, eccetera eccetera, ed è un susseguirsi di bolle che si gonfiano ed esplodono, e ogni volta che esplodono bruciano liquidità, espongono a fallimenti banche, investitori eccetera. Quindi di nuovo un nuovo intervento di liquidità, che però richiede di nuovo di essere remunerato, e si riproduce all'infinito questo circolo vizioso. Emettere liquidità 2 anni fa ha posto le premesse di questa crisi di adesso. Emettere liquidità adesso ci permetterà probabilmente di superare nell'immediato la situazione, ma entro 1, 2, massimo 3 anni ci troveremo nella stessa situazione peggiorata. Però non esistono delle ricette, diciamo così, preconfezionate, di quelli che si trovano sui libri di economia, che riescono a rispondere a questa domanda? I libri di economia in genere si scrivono, quando sono cose serie, si scrivono sulla base dell'esperienza precorsa. È difficile emettere una terapia, una formula per il futuro. Di volta in volta bisogna testare, un po' sulla base dell'esperienza precedente, un po' empiricamente, quello che c'è da fare. Il vero problema è che qui noi ci troviamo di fronte a un sistema che produce questo funzionamento. Non è un problema di errori che hanno fatto alcuni banchieri investendo male i loro soldi. No, questo è, dovevano necessariamente fare questo in questo sistema. Noi siamo entrati in un sistema nel quale il denaro produce denaro. Ti ricordi la frase che dice il protagonista di 9 settimane e mezzo alla donna che gli chiede che lavoro fai? Risponde: faccio soldi con i soldi. Ecco, fare soldi con i soldi provoca questo tipo di accumulazione, quindi diseguaglianze sociali, quindi disavanzi nella bilancia commerciale, quindi il risultato finale è questo. Mi faceva venire in mente questa battuta che tu avevi fatto. Ricordo che siamo qui in studio con Aldo Giannulli e l'abbiamo chiamato per ragionare insieme sui prossimi mesi sulla base di un libro che ha scritto un paio di anni fa, che si intitolava proprio 2012, la grande crisi. Allora forse sì, una piccola premonizione te la devo chiedere. La prossima bolla, perché tu hai detto che ci sono delle bolle che rischiano di esplodere proprio perché, come dire, sono alimentate in qualche modo da ricette sbagliate. È possibile immaginare quale sarà la prossima? Poi lo cancelleremo questo file? No, non sarà. Allora, secondo me l'anno prossimo noi corriamo 3 grossi rischi. Il primo rischio si chiama... Quest'anno, sai? Ti stai... pardon. È già 2012, eh? No, io vado un po' indietro. Quest'anno, quindi, rischiamo. Quest'anno corriamo 3 rischi. Il primo è negli Stati Uniti. La scadenza dei titoli ad alto rischio, ne scadono per una quantità 8 volte superiore alla media annua, quindi è come se scadessero 8 anni di titoli ad alto rischio, e lì appunto si può determinare l'effetto domino che dicevo. Il secondo rischio è che fine fa l'euro, perché se l'aggressione contro i titoli di Stato dei paesi euro dovesse proseguire, potremmo trovarci in una situazione in cui salta in aria l'euro. Il terzo rischio è a Pechino, è il rischio dell'esplosione della bolla immobiliare in Cina, che per la verità già è quasi iniziata, perché nelle grandi città della costa ci sono flessioni fino al 30-70% del valore degli immobili. Quindi l'altro rischio che stiamo correndo molto seriamente è che proprio la locomotiva attuale, il sistema economico mondiale, si fermi con un crack. Abbiamo citato Stati Uniti, abbiamo citato Cina, che saranno anche i due temi, lo dico subito ai nostri ascoltatori, che analizzeremo un po' più approfonditamente domani e dopodomani, per arrivare poi giovedì a fare invece un ragionamento su Italia-Europa, anche dal punto di vista politico, perché evidentemente questo tipo di crisi hanno sempre delle conseguenze di tipo economico. Speriamo di entrare in contatto subito con un ospite che abbiamo deciso di chiamare in questa trasmissione, perché non sei l'unico, diciamo così, permettimi questa battuta, che ha azzeccato le previsioni nel... Non lo pretendo. Esatto, ma in qualche modo addirittura c'è stata una persona che adesso abbiamo al telefono e che salutiamo, Massimo Di Nola, buongiorno. Buongiorno, buon anno a tutti. Massimo Di Nola, speriamo buon anno. Esatto, che in qualche modo addirittura l'ha azzeccato un anno prima di te qualche previsione. E anche questo... l'ho citato molto nel mio libro. E anche perché Massimo Di Nola, che è un giornalista di Radio Core, anche in questo caso non è che aveva dei poteri paranormali, guardava dei numeri. Ascoltami, Di Nola, tu dicevi ci sono stati dei comportamenti eccessivamente disinvolti di alcune banche e di alcuni operatori immobiliari che hanno dato il via a questa crisi. E poi tu aggiungevi: l'economia ha bisogno di un grande cambiamento. Lo vedi? No, innanzitutto non ho nessuna pretesa di aver anticipato nessuno in questa analisi qua. Ti dirò che io quel libro l'ho scritto perché a un certo punto mi sono stupito dalle vicende che accadevano, ma ci sono stati vari economisti che avevano parzialmente, o anche, non so, prendi solo Rubinetti, che è il più famoso, previsto che stava per scoppiare una bolla, dove l'interesse non è tanto dove è scoppiata, ma che questa bolla si sarebbe come una strana infezione propagata nei posti più strani e nel modo più impensato, per cui dalle case della California si arrivava ai fondi pensione di Singapore oltre che ai nostri. Quindi appunto nessun diritto di o presunzione di priorità. Certo. Ascoltami, un'altra domanda. Nelle banche e nelle finanziarie statunitensi, sono andato a rivedermi i dati poco fa, compresi quelli coinvolti nel crack, sia chiaro, non si sono ridotti stipendi e benefit, anzi al contrario, in alcuni casi sono aumentati. È un caso? Viene tollerato perché non si può fare diversamente? O, come dire, fa parte di come dire, proprio la logica del mercato? Ma guarda, io mi sono attaccato un po' in ritardo alla vostra trasmissione, ma appunto chi parlava diceva giustamente che i comportamenti delle banche sono dei comportamenti coatti, e quindi chi fa il banchiere è costretto a guadagnare in quel modo lì, no? Con i soldi che fanno soldi. Devo dire che appunto nel mio libro, tra l'altro, io ho fatto un errore in qualche modo, nel senso che prendevo questo scandalo che scoppiava ovviamente sugli stipendi dei banchieri come un fatto soprattutto morale o moralistico, cioè giustificato, ma che era nella sfera della moralità. In realtà è un fatto funzionale, nel senso che ormai nel mondo bancario, in realtà in tutto il mondo imprenditoriale, questa è una considerazione che andrebbe fatta sui cambiamenti del mondo del lavoro, ormai l'incentivazione dei manager è qualcosa che non è più affidata al buon senso dell'imprenditore o di chi vuoi tu, ma è qualcosa che viene automatizzata, studiata in modo parascientifico, e che obbliga di fatto a dei comportamenti coatti che guardano al breve termine, ai guadagni immediati, tutto questo dice che aumenta quella variabile che è quella che ha fatto scoppiare tutta la crisi, che nessuno riesce a controllare, che è il rischio. Quindi abbiamo banchieri che puntano, che sono costretti a guadagnare di più perché così hanno delle performance che aumentano i loro stipendi, e per fare questo il gioco che possono fare è di immettere più rischi nel sistema senza curarsi del fatto che poi questi rischi scoppiano. Ti faccio un esempio, perché guardavo, sì, io non... Dobbiamo essere purtroppo molto rapidi, per motivi solo di tempo. No, figurati, no, dicevo solo questo. Prendi adesso, una banca va dalla BCE e prende i soldi all'1%. Poi può investire in titoli di Stato italiano, adesso non so cosa danno quelli a medio termine, credo il 7, l'8% o anche di altri paesi, e fa senza muovere un dito, potendo licenziare tutti i suoi dipendenti, fa degli utili incredibili. Questo per dirti appunto come è un sistema che ormai ha delle incapacità di controllo. Grazie Massimo Di Nola, e in bocca al lupo naturalmente per questo 2012. anche a voi. Grazie. E a tutti noi, ciao. Massimo Di Nolo, ricordo, giornalista di Radio Cor. Dobbiamo andare a chiudere, Aldo Giannulli, e volevo fare una domanda fuori sacco, perché è una delle domande che magari svilupperemo nei prossimi giorni. Proprio in 30 secondi però mi devi rispondere. Ma insomma, cosa hanno in mente gli iraniani con queste esercitazioni che stanno facendo sui missili, eccetera? Lo diciamo perché evidentemente la componente di elezioni negli Stati Uniti, elezioni in Russia, elezioni in Francia e dinamiche strategiche sono decisive per l'economia. E ti sei dimenticato di mettere nel conto il costo del barile di petrolio. Esatto. Gli iraniani, secondo me, stanno facendo guerra psicologica. Vogliono vedere se attraverso gli annunci, i lanci di missili, eccetera, riescono a provocare un'impennata nel prezzo del petrolio. Loro sanno di non poter reggere un urto militare con gli Stati Uniti, anche se poi questo è tutt'altro che chiudere una partita, viene fuori un Iraq al quadrato, ma in ogni caso loro sanno che un attacco di Israele o degli Stati Uniti li metterebbe in gravi difficoltà. Quale arma cercano di usare? Quella del petrolio. Di tutto questo, se volete, potete continuare a parlare con Aldo Giannulli sul suo sito www.aldogiannulli.it, e se vi è piaciuta questa trasmissione ascoltate domani alla stessa ora, che parleremo invece di Cina, un grande mistero in qualche modo che cercheremo magari di rendere un po' meno misterioso. Grazie Aldo Giannulli. Grazie a voi.